24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento di fine settimana, dunque 24 ore in Europa. Purtroppo il dato di partenza è negativo. Infatti nell'Eurozona a ottobre sono stati registrati 18,7 milioni di disoccupati, pari all'11,7% della forza lavoro delle persone attive, un dato in crescita rispetto al mese precedente. Su base annua l'aumento della disoccupazione è stato di 1,3 punti percentuali, pesante in particolare il dato sui giovani. A ottobre c'erano oltre 5 milioni e mezzo di giovani disoccupati, giovani si intende under 25, di cui 3,6 milioni solo nell'Eurozona. Emerge questo dato dal rapporto Eurostat reso noto ieri mattina, secondo cui il tasso dei giovani disoccupati è stato lo scorso mese fissato al 23,4% nell'euro a 27 del 23,9% nell'Eurozona. Per quanto riguarda i paesi colpiti ovviamente in maniera diversa, i tassi più bassi sono osservati in Germania, 8,1%, in Austria e in Olanda, i più elevati in Grecia, 57%, in Spagna, 55,9%. L'Italia, il dato sulla disoccupazione, lo ricordiamo, under 25, misurata in ottobre, al 36,5%, era al 30% un anno fa, quindi un peggioramento complessivo molto significativo. Ma ora sentiamo il punto in Italia di Valentina Furlanetto. Sale il numero delle persone senza un lavoro in Italia. Il tasso di disoccupazione a ottobre ha superato la soglia dell'11%, raggiungendo l'11,1, un rialzo di 0,3 punti percentuali su settembre e di 2,3 su base annua. Lo rileva l'Istat e sottolinea che è il tasso più alto da gennaio 1992. Situazione ancora peggiore per i giovani. Il tasso di disoccupazione in questo caso è al 36,5%. I lavoratori italiani poi sono sempre più precari. Nel terzo trimestre i dipendenti a termine sono stati 2.447.000, a cui si aggiungono 430.000 collaboratori. Sommando quindi le due categorie si sfiorano i 3 milioni di lavoratori precari, il massimo dal 1993. Non sono lavoratori che vogliono essere impiegati temporaneamente, sottolinea l'Istat, ma che accettano lavori a tempo in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. Nell'Eurozona le cose non vanno meglio. A ottobre sono stati registrati 18 milioni di disoccupati, pari all'11,7%, dato in crescita rispetto al mese precedente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il dato livello di disoccupazione registrato da Eurostat è inaccettabile, inaccettabilmente alto. I governi devono adottare le misure decise a luglio per rendere il mercato del lavoro più dinamico. Così Nogaran Todd, portavoce del commissario al lavoro dell'Unione Europea, Laszlo Andor, aggiungendo tra l'altro che fronteggiare la disoccupazione e le sue conseguenze sociali deve essere la priorità dei governi, a cui va chiesto di estendere a tutti i 27 paesi il sistema di Youth Guarantee a favore del primo impiego dei giovani. Italia e Francia, sono necessarie riforme che rendano meno rigide il mercato. Dunque lo stesso tema affrontato dal presidente della BCE Mario Draghi, secondo il quale questo è un passaggio fondamentale. Draghi questa mattina a Parigi, sentiamo il servizio. L'Eurozona non è ancora fuori dalla crisi, ma potrebbe iniziare a riprendersi nella seconda metà del 2013. Lo dice il presidente della BCE, Mario Draghi, secondo il quale il consolidamento di bilancio a medio termine è inevitabile. Per Draghi, alcuni paesi dell'Eurozona hanno vissuto in un mondo di favola, sottostimando gli squilibri come il deficit e il debito, che in alcuni paesi sono stati ritenuti sostenibili per anni per poi rivelarsi insostenibili. In questo contesto la Banca Centrale farà tutto il necessario per preservare l'euro e Draghi ha ribadito che la BCE è pronta ad intervenire con lo scudo anti-spread se necessario. I paesi dell'Eurozona però devono imparare a condividere la sovranità a partire dall'Unione Bancaria. Unione Bancaria che è una priorità anche per il direttore del Fondo Monetario. Per Lagarde la situazione economica nella zona euro resta fragile nonostante le risposte politiche forti a livello nazionale ed europeo che hanno contribuito a tranquillizzare i mercati. Serve dunque una chiara prova di solidarietà europea. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite renderà le rivendicazioni della Palestina più visibili, più forti, più efficaci. Così il presidente del Parlamento dell'Unione Europea, Martin Schulz, ha commentato il via libera alla missione della Palestina come stato osservatore non membro delle Nazioni Unite. Schulz ha ribadito la necessità che israeliani e palestinesi tornino al più presto al tavolo dei negoziati, arrivando alla soluzione dei due stati basata sui confini del 67 e con Gerusalemme capitale di entrambe le parti. Un voto storico alle Nazioni Unite. Ieri, nel tardo pomeriggio, l'Assemblea Generale ha riconosciuto la Palestina come Stato non membro, nonostante le opposizioni da parte degli Stati Uniti. Dal punto di vista concreto, non si viene a creare uno Stato palestinese, per quello ci vorrà un negoziato diretto con Israele, ma si è creato un punto di svolta, soprattutto dal punto di vista psicologico, dal quello politico si è cercato di rafforzare Abu Abbas e di indebolire Hamas nel momento in cui il movimento terroristico aveva attaccato Israele con dei missili nella speranza di restituire un po' di spazio al dialogo. Ma Abbas ha usato anche termini duri. È chiaro che la base negoziale cambia, non è più quella di Oslo del 93. Infine, un ruolo importante dell'Italia. L'ambasciatore Cesare Ragaglini ha ottenuto garanzie che Abbas non chiederà l'iscrizione della Palestina alla Corte Penale Internazionale. Questo era un punto delicatissimo che avrebbe potuto creare ulteriori imbarazzi in Israele. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Calano del 20% i livelli di ottimismo per il futuro, la sensazione di felicità, ma soprattutto crolla in Italia e nei paesi europei più colpiti dalla crisi la fiducia nella politica. Nel nostro paese quasi una persona su due denuncia difficoltà a far fronte alle necessità quotidiane, solo una su tre si dichiara pienamente non depressa dalle circostanze. Sono alcuni dei dati contenuti nel terzo rapporto sulla qualità della vita in Europa, preparato da Eurofound, l'associazione dell'Unione Europea specializzata nella consulenza sui temi del lavoro e delle condizioni di vita. Parliamo del premio Nobel per la pace. Tre premi Nobel per la pace sono Desmond Tutu, Mariette Mayer e Adolfo Pérez Esquivel. Hanno inviato una lettera alla Fondazione Nobel per chiedere che l'Unione Europea non riceva il premio che le è stato assegnato per il 2012. L'UE non è chiaramente il campione della pace che Alfred Nobel aveva in mente quando ha redatto il suo testamento, scrivono i tre in una lettera aperta. Il comitato Nobel norvegese ha ridefinito e rimodellato il premio in un modo che non è conforme alla legge, aggiungono, affermando che il comitato avrebbe dovuto rispettare le ultime volontà dell'industriale e filantropo svedese. L'ex arcivescovo sudafricano Desmond Tutu ha vinto il Nobel per la pace nell'84, il nordirlandese Mairead Maguire nel 76, l'argentino Pérez Esquivel nel 1980. E ora parliamo di ambiente. L'Unione Europea, l'Australia, la Svizzera sono pronte ad adottare un secondo protocollo di Kyoto a Doha, dove è in corso la 18ª conferenza mondiale sul clima, ma diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, Canada e Giappone, sono propensi a sottrarsi all'iniziativa. Noi ne abbiamo parlato con Connie Hedegaard, commissario dell'Unione Europea all'azione climatica, ci ha spiegato quali speranze intende coltivare, quali obiettivi e risultati riportare dagli incontri in Qatar. I would say our hopes that when we all leave Doha 12 days from now.